GR Sport. Buongiorno da Dario Ricci. Il Milan frena Lecce, allora l'Inter brucia in volata l'Udinese e torna capolista dopo l'undicesima di A. Rossoneri in vantaggio con Ronaldinho a Lecce, ma Esposito alle O scadere sigla l'1-1. La gioia dello stesso Esposito a Sky Sport. No, non me l'aspettavo nemmeno nei sogni. Era la squadra che tifavo sin da quando ero ragazzino. Entrare a fare un gol così al Milan, pareggiare la partita, è stata una cosa fantastica. Sempre al 90esimo a San Siro arriva l'1-0 dell'Inter sull'Udinese, firmato da Cruz. Il tecnico nerazzurro Mourinho. Noi abbiamo giocato molto bene difensivamente, e loro con 3 giocatori di attacco di grandissima qualità, di grande velocità, praticamente senza pericolo. Fatica per noi di segnare, ovviamente sì, ma la partita finisce quando finisce, l'ultimo minuto si perde, l'ultimo minuto si vince e la mia squadra ha dimostrato una voglia molto grande, un carattere molto importante. Non molla il Napoli, che supera 2-0 la Sampdoria, e riprende a volare la Lazio, 3-0 al Siena. Ma il grande protagonista di giornata è Alex Del Piero, che nel giorno del suo 34esimo compleanno va a segno su punizione nel 2-0 della Juventus a Verona col Chievo. Sono felicissimo naturalmente per il gol, ma soprattutto per la vittoria che dà continuità a questo buon momento nostro. Sono felicissimo di questo momento e di questo nostro momento. La Fiorentina supera 2-1 l'Atalanta, in gol Gilardino, che cede però la testa della classifica marcatori al genoano Milito, che arriva a quota 9 con la tripletta nel 4-0 alla Regina. Credo che questo fa piacere, non è facile vincere 6 partite di fila in casa. Siamo contento, credo che siamo sulla strada giusta e abbiamo adesso una giusta mentalità. Quindi niente, dobbiamo andare avanti così e siamo contenti. Il Catania batte 2-1 il Cagliari, ma all'ombra dell'Etna non tutti sono soddisfatti. E allora l'allenatore Zenga non ci sta. Io faccio un'analisi molto semplice, 11 partite e 18 punti. E ripeto ancora, se, come l'ho detto in sala stampa, se a Catania hanno bisogno di un altro allenatore si accomodino. Perché se non va bene avere 18 punti dopo 11 partite, io posso tornarmene a casa. Passiamo al basket. Nella quinta di A1, la netta vittoria sulla Fortitudo fa di Siena la capolista solitaria a punteggio pieno. L'ala centro toscana, Thomas Ress. Siamo contenti per questa vittoria che è venuta in un momento molto buono dove abbiamo giocato contro il Barcellona, Fortitudo, Panathinaikos e Roma, è praticamente come essere nei playoff per noi. Vittoria anche per Montegranaro, Milano, Cantù, Treviso e Avellino. Rinviata Caserta a Pesaro per l'incidente d'auto che ha coinvolto i giovani dell'Under 15 casertana. Per la pallavolo nella 1 maschile Macerata batte 3-0 Cuneo e si porta a un solo punto dalla capolista Trento, che batte in trasferta a Modena per 3-2. Tra le donne sempre in testa la coppia Pesaro-Bergamo. E ora i motori, rimpianto per il secondo posto di Massa, un punto da Hamilton e orgoglio per l'ennesimo titolo costruttori. Così il presidente della Ferrari Montezemolo è ritornato sulla conclusione del mondiale di Formula 1. Sentiamolo. Se non abbiamo vinto e non abbiamo ripetuto il miracolo è perché abbiamo perso delle occasioni, soprattutto per mancanza di affidabilità durante la stagione. Quindi serenità, grande gioia, 8 mondiali di Formula 1, signori, in 10 anni. Credo che sia difficilmente battibile come record. Per il ciclismo Paolo Bettini e il suo compagno Joan Llarenas si sono aggiudicati la 6 giorni di Milano. Per il campione toscano era l'ultima gara di una grande carriera, coronata da 2 titoli mondiali e 1 olimpico. E chiudiamo col tennis. L'americana Venus Williams ha vinto il Masters donne a Doha, battendo in finale la russa Zvonareva per 6-7, 6-0, 6-2. Vi ricordo l'appuntamento con A Tempo di Sport alle 14. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.